www.radio3pod.rai.it. Prima l'uovo, la gallina, le penne o i calamai. La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce, quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli le muffe alle pareti cominciano a vivere in un ecosistema separato, Cappa e Drago finiscono a parlare di vizi capitali. Cioè, Cappa, io ero arrivato al punto che non facevo più manco l'estratto conto. Ah, quello è pericolosissimo. Sì, non vedendo l'estratto conto, facevo passare ancora quei 2 o 3 giorni senza pensarci e poi succedeva un disastro. Come quando avevo un esame e aspettavo di studiare gli ultimi 2 giorni. Io lo sapevo, però nei giorni precedenti non facevo un tubo lo stesso. Lo sai come si chiama questo vizio? Sindrome dello struzzo, quando fai finta, no? Si chiama accidia. Sì, ed è uno dei 7 vizi capitali. Quali sono gli altri 6 vizi capitali? Hai 5 secondi di tempo per dare una risposta. Ah, ricordati di santificare le feste. No, Drago, non desiderare la donna d'altri. Smettila, sono i comandamenti quelli. Dai. Oltre all'accidia, gli altri vizi capitali sono la superbia, l'avarizia, la lussuria, l'ira, la gola e l'invidia. Smettila di commentare. Ma l'accidia cos'è alla fine? Perché nessuno lo sa. Cioè, non controllare l'estratto conto è accidia, non è che sia l'accidia, tanto, secondo Tibor Wikipedia, il noto teologo ungherese, è l'avversione all'operare mista a noia e indifferenza. Cioè, uno che non ha voglia di far niente. No, in pratica è quando per pigrizia, cioè che non hai voglia di far niente, però provochi anche dei danni, hai capito? Cioè, se tu invece di ramazzare il pavimento sposti solo la polvere sotto il divano, alla lunga sotto il divano si crea una polveriera. Poi esplode, no? Ma no, e poi gli scarafaggi fanno il nido lì, no? Hai capito? Insomma, poi sì, dopo hai capito. Ma allora io sono accidioso al 100%, capo, perché io ho lasciato che nella mia vita succedessero un sacco di cose senza muovere un dito, poi i danni li avevano anche sempre gli altri, non è che li avevo allora solo io. Anche tu sei stato vittima di... La maledizione dell'accidia. Sì, capo, forse anch'io, come te, come tutti, ho nascosto la polvere sotto il divano. Ma sotto il divano dove? Sei sicuro di averla messa? Sì, guarda, era lì. Ma ti giuro che non c'è. Cosa c'è invece sotto il divano? Aia. La fabbrica di polli. Fedele, confessa pure i tuoi peccati e sentiti immediatamente più buono. Spera. Padre elettrico, Cappa mi ha parlato del concetto di accidia. Sì. E io mi sono riconosciuto immediatamente come accidioso. Sì. Ecco. Poi? No, basta. Fedele, non mi hai fornito di sufficienti informazioni per elaborare un verdetto di assoluzione coerente. Sfera. Ma sfera in che senso? Sfera. Vabbè, allora, padre elettrico, che cosa posso dirle di più? Ho capito oggi che l'accidia poi provoca un senso di colpa e tutto questo circuito vizioso cattolico alla fine porta alla pazzia e anche a una sospetta corioretinopatia centrale sierosa. La più grave. Lo so. Ti posso consigliare un ottimo oftalmologo. Sfera. No, ma io parlavo del senso di colpa provocato dall'accidia. Purtroppo la mia release non comprende l'Antico Testamento e non so di che cosa diavolo tu stia parlando. Spera, che cos'è questa accidia che non si possa combattere con un semplice malox? Ma che malox? Ma padre elettrico! Spera! Introdurre un nuovo gettone se non me ne studito, anzi rondo ma non mi esprimo. Spera, svengo. Das ist keine Werbung. men. You are the cattle, and we are the keepers. La sindrome di Tourette non l'ha mai presa in considerazione. No, l'ho presa proprio. L'hai presa? No, perché ultimamente... No, l'ho presa proprio, ce l'ho avuta. Sono guarito però. Mi parli della sua esperienza di turettico. La prima volta mi è successo con un camionista che mi ha riempito di legnate. Io ho avuto un attacco di Tourette mentre passava un camionista col finestrino giù. Si è fermato e mi ha riempito di legnate, convinto che insultassi lui. La Tourette, no, la sindrome, no, attenzione, si calmi, amministratore. Amministratore, elecato, ci sono gratis che cada dia nessa fábrica è un carnaval. Administrador, delegado, te somos gratos que cada dia nessa fábrica é um carnaval. Cada dia nessa fábrica é um carnaval. Cada dia nessa fábrica é um carnaval. Accidiosi, aprite gli occhi. Ma io non lo sapevo, Non trovate sempre delle scuse. Ma quali scuse? Il talloncino giallo della raccomandata è lì dal 2004. E voi la raccomandata non siete ancora andati a ritirarla. Vabbè, ma poi tanto in qualche modo... La busta con i risultati dell'attacco è lì da 2 settimane. E voi non l'avete ancora aperta. Ma quale TAC? Io ho mai fatto un attacco, La multa è scaduta da 90 giorni. Voi non l'avete ancora pagata. Vabbè, ma tanto poi arriva di nuovo con la mora. Avete detto al benzinaio che avreste pagato il giorno seguente e dopo 3 anni vissuti alla macchia avete anche cambiato quartiere. Ma tanto quel benzinaio lì è una mazza di galera, Accidiosi, non fate i bambini. Le cose si fanno senza pestare i piedi, con calma e serietà, serenamente, in modo maturo, pacatamente. Però poi, dopo aver parlato così per tutto questo tempo, poi a uno gli viene il nervoso, hai capito? A uno poi gli viene il nervoso! Pacatamente! Aia! Serenamente! Però ti viene il nervoso! Cosa succederà adesso? Un'altra settimana corta è arrivata alla sua conclusione e le vicende della fabbrica di polli sembrano giustamente evolvere verso un misticismo sincero e accorato. E allora, puntuali, lunedì a mezzanotte su Radio 3, con i prossimi indiscutibili allestimenti de... La fabbrica di polli produce, non chiude. Fabbrica di Polli, un programma di Cappa e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen con Roberto Accornero, Guido Bertolotti, Alberto Caserini, Paolo Corsi, Giovanni Della Morte, Luca Gemma. La Fabbrica di Polli è trai.it, barlumen.com. Spira, spira, spira.